alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Quinta puntata. Con la grande scala, l'ultima che abitammo a Riga, mio padre un giorno mi interroga. Siamo soli nel salone. Mi chiede dell'estate precedente in cui eravamo con la mamma a Torre Pellice. Veniva tutti i giorni a trovarci un collega di mio zio, un professore dal cognome spagnolo, con i denti bianchi e i capelli sempre lucidi. Mio padre mi chiede se quel signore parlava spesso con mia madre. E quel signore? E la mamma? Ed ecco che le parole incominciano a uscire, calde, calde, tutte pronte, nuove. Certo, la mamma e quel signore parlavano spesso la sera insieme, seduti sulla panca verde sotto la finestra del soggiorno. Mentre parlottavano una sera, lui le aveva dato qualche cosa di luccicante. Ah, un anello? Non so, non ho visto bene, ero dentro in casa. Un braccialetto? Forse, ma ero dentro in casa e non ho visto bene. E su codesto qualcosa di luccicante continuo a insistere anche durante il confronto successivo con mia madre, seduta accanto a mio padre sul sofà del salone. Mia madre, insolitamente mite: ma insomma, Michi, dillo che è una bugia. Ma io niente, continuo ad affermare che è andata così, proprio così. Le parole, in vero, si impadronivano di me. Le dicevo ed ecco che si staccavano dalla mia volontà e da sole proseguivano la loro strada, intrecciandosi, collegandosi, formando nuove figure. Sapevo di cedere a un impulso irragionevole quando lasciavo correre via le parole dal loro reale punto di partenza, ma non resistevo. Esse mi travolgevano in una corrente irresistibile, mi buttavano verso chi mi stava di fronte. Dovevo cercare di prenderlo e trascinarlo con me. Io ero là, nelle mie parole, uscita finalmente da me stessa, liberata dai miei gesti goffi e deboli. La mia bugia ero io. Io che potevo finalmente svestire gli altri delle loro frasi e delle loro regole, perché mi dessero retta un solo istante. E perché al di là dei loro silenzi adulti, delle loro meditate reticenze, mi fosse dato di impadronirmi di loro, di chiuderli con me nel mio cerchio di luce. Costruivo invece sulla realtà e sui suoi dettagli, nelle storie che raccontavo la sera a mia sorella. Non raccontavo mai fiabe, che pure leggevo volentieri. Nelle mie storie eravamo protagoniste, mia sorella e io, in avventure e spedizioni. Non c'erano mai padri e madri e gli adulti venivano spesso beffati. Rinchiudevamo la sarta di casa dentro lo sgabuzzino. Altre volte partivamo di nascosto per l'Italia. Gli adulti erano stupidi e non si accorgevano di quel che Zizi e io stavamo tramando. Li mettevo in ridicolo facendoli cadere per le scale e incamminandoli per la strada con corone di pesci secchi intorno al collo. Raccontando, mi fermavo volentieri sui dettagli pratici. I luoghi avevano i loro nomi, i giorni e le settimane erano indicati. Una volta, durante una passeggiata alla spiaggia, era autunno, portavamo già i cappotti imbottiti, ci nascondemmo all'interno delle enormi radici di un abete che, sporgendo dalla sabbia, formavano una vera e propria tana. La nostra governante, dopo averci chiamato per un po' ad alta voce, si allontanò pensando che l'avessimo preceduta sul cammino verso casa. Dopo un certo lasso di tempo la seguimmo per la stessa strada. Giunte a casa vi trovammo la mamma, per nulla allarmata, anzi quasi divertita, avendo attribuito a mia sorella l'idea dell'impresa. Ciò mi irritò, avevo di nuovo mancato un'occasione di merito. Intrappolata nelle mie bugie, sempre più complesse, sempre più inspiegabilmente inutili, continuavo a inseguire le dannate regole inespresse. Ero impegnata in una costante, seppur cauta, operazione di sbugiardamento non solo del prossimo, ma anche della realtà che si presentava in figure inaspettate e, come mi sembrava, illusorie. Siamo d'estate, con la nostra governante in un albergo sulle rive di un lago. Giochiamo in costume da bagno con la sabbia. Gioco con un piccolo finlandese che si chiama And. È innamorato di me. Io sono sempre innamorata. I maschi sono belli, purtroppo sono un po' stupidi. Bello è il mio compagno di asilo che porta già i calzoni sotto il ginocchio, i knickerbockers, è molto vecchio, dovrebbe già andare a scuola, ma è stupido e allora viene all'asilo. Una volta viene a trovarci la zia Jo, madrina di mia sorella, con il proprio figliuolo che è altissimo, ha 10 anni. Ed è molto stupido, legge compitando, mentre io che ho appena 5 anni leggo correntemente. Quando sta per andare via, traggo in disparte mia madre e la supplico: digli di restare a cena, mi piace tanto. Mia madre sorride, ma non gli dice nulla e se ne vanno. In seguito lei racconta di quella mia richiesta e sorride, stupita e benevola. Non sono innamorata del piccolo finlandese Ant, è più giovane di me di 1 anno, ha 6 anni. E temo un po' il ridicolo della situazione, ma gioco volentieri con lui, che è molto servizievole e mi dà retta. Suo padre, quando viene a trovarlo, ci conduce a fare lunghe gite in barca sul lago. Rema per ore in silenzio e noi due in silenzio stiamo seduti nella barca che passa tra le canne in un fruscio molle. Il lago è coperto in alcuni punti di ninfee. Quando si colgono, ma è meglio non coglierle perché una volta colte appassiscono subito. Quando si colgono si sente un plop lontano giù nell'acqua e il fiore, odoroso di umidità, ti sale docilmente in mano. Il padre di And non parla, tiene la pipa stretta tra i denti e ogni tanto ci guarda coi suoi occhi grigi. Vado volentieri in barca con lui, soprattutto perché non vuole che nessun altro vada in gita con lui, solo io. Sto seduta dietro di lui e non ho paura, se cadessi nel lago mi ripescherebbe subito. È molto triste perché sta divorziando e penso che mi piacerebbe sposarlo. Peccato che sia tanto più vecchio di me. Sulle tempie i suoi capelli sono grigi. Dunque un giorno, mentre giochiamo sulla sabbia, noto che Ant ha un piccolo sacco nelle mutandine, proprio davanti, tra le gambe. Ehi, gli dico, perché ti sei messo un sacchetto di sabbia nelle mutande? Non è un sacchetto di sabbia, dice lui, ce l'ho sempre. Ma va, ce l'hai sempre. Ce l'ho sempre, è di pelle, mi sta attaccato davanti. Il bugiardo, ma com'è possibile? Ma lui insiste. Allora gli propongo di darmi la prova la sera stessa. Mentre le nostre governanti avrebbero chiacchierato come al solito nel soggiorno dell'appartamento d'affitto dove lui stava con la sua, noi ci saremmo chiusi in camera da letto. Io mi sarei calata le mutandine e lui pure, e così si sarebbe visto quel suo famoso sacchetto di pelle. La sera, chiusa la porta, ci svestiamo nella stanza grigia per la notte estiva. Io mi sfilo le mutandine, ma lui saltella e con le mani stringe alla vita le sue. Incomincia persino a strillare quando io prendo a insistere. Le nostre governanti bussano alla porta e lui va ad aprire. Faccio appena in tempo a rimettermi le mutandine che esse irrompono gridando. Ci rivestono e vengo ricondotta all'albergo. Devo subito andare a letto. Con la coperta sino al naso le sento di là parlare della vergogna, però ogni tanto ridono eccitate. Sono arrabbiata con lui, il vigliacco, che non è stato ai patti, perché non aveva nulla da mostrare, si capisce. Poi incomincio a preoccuparmi, temo che l'indomani tutto l'albergo sia informato della storia e pensare che mi sono procacciata una buona reputazione per aver aiutato talvolta a prendere le ordinazioni nella sala da pranzo e a fare i conti. Sono sveltissima a fare i conti. E adesso tutto crolla per la stupida questione dell'essersi tolta le mutandine. Regola inespressa. Quando mia madre, in quel periodo in viaggio in Italia, lo saprà, dirà anche lei: che vergogna! Tanto più lo dirà quando saprà che lui non lo ha fatto, che sono stata io a convincerlo alla prova. Quel vigliacco, mai più gli rivolgerò la parola. Di là le governanti non la smettono di chiacchierare e di ridere. Ogni tanto alzano la voce e gridano per aria: che vergogna! Ma io, a dire il vero, non mi vergogno affatto. Mi dispiace soltanto e amaramente della mia perdita di prestigio. Quella sì che mi rincresce, ma non mi vergogno. Infatti, ho anche ragione. Era vero, infatti, che mia madre e quello spagnolo dai capelli lucidi parlottavano tra di loro sulla panca verde nel giardino, anche se quel parlottare era solo il nocciolo di una realtà che non avevo saputo configurare altrimenti che come un immaginario oggetto lucido e prezioso. Gli adulti giocano con te un gioco disonesto. Vediamo quel che indovini. Noi non ti diciamo caldo caldo oppure freddo freddo. Gli accenni al giusto sentiero sono nascosti di qua e di là nei nostri discorsi. Sta a te coglierli. Il gioco è però un gioco pericoloso. Se mi avvicino troppo, rischio di cadere appunto nella vergogna, simile all'improvviso rogo fiammeggiante di fiamme arancione nel quale sono caduto una volta cercando di fuggire in sogno alla solita locomotiva nera che mi inseguiva. Mentre cadevo nell'incendio, frammisto alla paura, c'era un piacere stupefatto, e al momento di svegliarmi il rogo si trasformò per strati successivi arancione e giallo nella camera da letto dei miei genitori, anzi nel loro letto coperto da un copriletto arancione. In questa camera da letto mia madre portava la camicia da notte e mio padre il pigiama. Neppure da adulti si poteva stare nudi insieme. Persino andare per la casa in pigiama non era permesso, anche se mio padre lo faceva naturalmente. Noi si portava il pigiama perché eravamo ancora bambine, da grandi avremmo avuto i capelli lunghi e avremmo fatto bambini perché eravamo donne. Al mare molti si bagnavano nudi in quell'acqua freddissima, c'era un orario apposito. Noi andavamo alla spiaggia nell'ora di quelli che si bagnavano in costume e nell'ora delle donne nude. Mia sorella, mandata un giorno a vedere se era terminata l'ora dei nudi, era ritornata indietro dicendo che non si capiva se fossero uomini o donne quelli che stavano sulla spiaggia, nudi come erano. Una volta, mentre eravamo ai giardini con la governante, mi ero allontanata, offesa in silenzio per una qualche osservazione, ed ero andata a sfogare il mio broncio di là della cima della collinetta artificiale su cui ci trovavamo. Tutto a un tratto sbucarono dai cespugli sparsi nelle aiuole accanto al sentiero che scendeva alcuni ragazzetti che si gettarono su di me gridando ad alta voce «Pipì!». Mi voltai e incominciai a correre in salita su per il sentiero. Correvo velocissima con le mie lunghe gambe e in un attimo fui sulla vetta con il cuore che mi batteva a grandi colpi nel petto. Rallentai il passo sulla discesa e non raccontai quel che mi era accaduto. Ma perché pipì? La parola sporca e incongrua che i ragazzetti mi avevano gridato mi spaventava e incuriosiva. Volevano che facessi pipì sulle aiuole? Però, siccome vivevo in genere in un clima di ordalia, intravidi un giudizio divino in quell'avvenimento. Ero stata punita per la mia disubbedienza. Questi giudizi divini, che ogni tanto mi colpivano, mi sviavano e rendevano ottusa, poiché tutto quello che mi era proibito era ugualmente vergognoso e passibile di punizione. Siamo allo zoo. Chiedo ad alta voce alla governante che cos'è la carotina rossa che a uno scimpanzé andava avanti e indietro sul basso ventre. Mi sgridano per averlo chiesto a voce così alta. Mi colpisce subito la violenza irragionevole della sgridata, ma non l'associo affatto all'assurda carotina dello scimpanzé, tanto più che poco prima avevo provocato la derisione dei presenti commentando alcuni rapaci appollaiati con aria completamente folle sui rami nelle gabbie. Il loro collo è nudo e spiumato, sanguinante, come se si fossero strappati l'un l'altro le piume, e non ci avrebbero beccati via gli occhi non appena avessero potuto? Figuriamoci, questo ha paura di tutto. Eppure, se un guardiano avesse lasciato inavvertitamente aperta la gabbia, non la imbrocco mai. Non sono mai sicura dei miei gesti. Non c'è accordo tra me e lo spazio che mi circonda. Quando mi muovo, devo districarmi da mille nodi invisibili. Una volta il nostro autista polacco, è polacco, si diceva in casa, ma è simpatico. Il nostro autista polacco mi insegna a proiettare delle figure d'ombre sulla parete illuminata, disponendo in vario modo le mani accostate. Un coniglio, un cane, un topo e anche la testa e le braccia di un burattino. Il gioco mi conquista talmente che tutte le sere mi esercito a rifare le figure e una sera, abbassando un dito, vedo il mio coniglio abbassare l'orecchio. Per la prima volta ero riuscita a mutare con un gesto qualcosa al di fuori di me, fosse pure un'ombra che non si poteva toccare. Ah, i liberi gesti degli altri li ho sempre amati e vagheggiati. Un giovane prete cammina a grandi e svelti passi in testa al corteo di un funerale. La toga nera svolazza intorno alle sue gambe nascoste, che pure si indovinano subito, agili, impazienti, pronte alla fuga. Nel cortile della scuola alcune ragazze eseguono esercizi di ginnastica ritmica. Una di loro, un'adolescente passiva, seduta in classe nell'ultima fila, pallida, un po' gonfia in viso, si muove qui snella nella tuta blu, allunga un braccio e segue con lo sguardo il lento armonioso movimento, e assorta nel suo braccio è tutta il suo braccio. Con lo stesso sguardo un ragazzo in giubbotto di cuoio sta fermo a un angolo di strada a gambe larghe sul sellino della sua motocicletta, chino con la testa di lato a sentire ronzare il motore, accenna un sorriso sognante. Io resto sempre dentro di me, so soltanto camminare. Dall'alto della vecchia cavalla sulla quale mi hanno messa per una passeggiata nel bosco, guardo con nostalgia l'erba gialla appena sgombra dalla neve che la maledetta bestia si china ad assaggiare, abbassando la testa, ultimo baluardo tra me e il vuoto, poter camminare da sola, scegliendo il mio passaggio asciutto tra le restanti chiazze di neve. Imparo a soffiarmi il naso verso gli 8 anni. Leggo i dolori del giovane Werther e intanto, con il fazzoletto, tergo a malapena il moccio che mi cola. Non mi sogno di espellerlo con violenza, con quell'orribile rumore. Se mi fosse uscito insieme il cervello, come al giovane Werther, di rado sono libera dei miei impacci. Patrizia Zappamulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.